9 in punto, la versione di Oscar. Che avete fatto? Mi avete abolito The End of Doors, ragazzi. Me l'hanno abolita, e allora continueremo senza. Fate conto che per naturalmente improvvida mancanza di coordinamento sia partita la sigla delle ultime settimane, perché mi dispiace dover disilludere i nostri tecnici che sono evidentemente ottimisti sull'Euroarea, ma non c'è nessuna notizia di ottimismo all'inizio di questa settimana, nessuna, clamorosamente nessuna, perché tutti quanti ieri hanno pensato di prendere un buco da parte dei colleghi della stampa, perché la stampa aveva, con l'ottimo Maurizio Molinari, messo alla frusta la stampa italiana intera, perché aveva detto: ragazzi, ci siamo, ormai il Fondo Monetario Internazionale impone con i suoi elicotteri all'Italia un prestito straordinario di 600 miliardi, perché l'Italia, il malato dell'Eurozona, non ce la fa, governo nuovo, non ce la fa. Se non che poi nel corso della giornata si è capito che Christine Lagarde, direttore generale del Fondo Monetario, è proprio convinta che non ci siano alternative. In realtà, come sempre, sappiamo che è l'Italia a dover chiedere, e l'Italia non ha chiesto l'intervento del Fondo Monetario Internazionale. Però diciamoci la verità, qui l'intervento non è escluso per niente. I famosi elicotteri con gli interventi di emergenza in realtà continuano a essere sempre più prossimi all'arrivo. Ecco, ci siamo. Perché voi dovete sapere che i nostri tecnici sono ottimisti, loro comprano i BTP al BTP Day, i nostri tecnici. Anche loro, io no, ma questo ne parliamo dopo. Allora, questa è la musica che chiediamo scusa ai nostri telespettatori. Qualcuno ieri ha vinto purtroppo con la squadra del cuore domenicale, il calcio, una delle grandi droghe degli italiani, che non fanno loro rendere conto che l'euro è lì per saltare. Quindi il pessimista Giannino vi deve dire che non è purtroppo molto contento del fatto che da settimane vi sta dicendo quello che sempre più emerge nei rapporti delle agenzie internazionali, degli osservatori, delle grandi banche, che oramai, lo avete letto in questo fine settimana, concretamente hanno dei bei dossier su come affrontare la rottura dell'Eurozona, gli enormi problemi della ridenominazione ovviamente in valute diverse di attivi e passivi che sono denominati in euro, l'enorme e complessa esplosione di conflittualità giudiziale che a quel punto esploderebbe, il disastro per migliaia di imprenditori, siano esse imprese o siano esse anche banche, che si troverebbero con attivi e passivi domestici denominati in valute che verrebbero svalutate del 30-40% rispetto al resto degli attivi e passivi che resterebbero invece denominati all'estero nei diversi mercati in dollari ed euro. Voi dite che Giannino era un po' troppo pessimista, ma invece può essere che siano stati coloro che continuano a dirvi che non vi dovete preoccupare, i troppo ottimisti, per così dire. Se andiamo a guardare oggi un pochino dalla stampa internazionale qual è il quadro di questa nuova settimana, il Financial Times ha un'analisi molto preoccupata del funding gap, cioè della distanza tra ciò che il sistema bancario europeo riesce ad attingere e ciò di cui avrebbe bisogno, perché misura in circa 241 miliardi di euro il funding gap appunto del sistema bancario. Questo a conferma del fatto che il sistema di approvvigionamento intraday a breve di liquidità del sistema bancario è inaridito più di quanto non fosse nelle settimane post Lehman Brothers. Ricordo a tutti che nel 2012 il sistema bancario europeo c'ha una necessità di rifinanziamento che sta tra i 720 e gli 800 miliardi di euro come totale delle proprie obbligazioni da rifinanziare in scadenza, e di questi tempi, con l'incorporazione dei rischi sovrani nei costi del rifinanziamento sul mercato obbligazionario all'ingrosso, non è allegra per nessuna una partita di queste proporzioni. Il quotidiano franco-tedesco, che ieri ha dato forse più particolari del piano B a cui si starebbe lavorando in Europa in vista dell'Eurovertice del 9 di dicembre, era l'edizione domenicale del Welt, il Weltamsonntag. Il Weltamsonntag spiegava meglio questo programma, di cui i primi particolari sono emersi la settimana scorsa, cioè quello secondo il quale all'Eurovertice si tratterebbe di varare una serie di modifiche dei trattati, che hanno tempi molto lunghi ovviamente, ma con l'impegno di adottarli nel tempo più breve, con un sistema di verifica e controllo sulla pianificazione delle leggi di bilancio e fiscali molto più stretto di quanto non sia avvenuto oggi. Però ci spiega Wetam Sontag che in realtà il piano concordato tra Angela Merkel e Nicolas Sarkozy è ristretto ai paesi dell'euroarea che hanno la tripla A, cioè a oggi appunto ancora la Germania, la Francia e pochi altri, quindi noi ne saremmo esclusi in realtà. I paesi dell'euroarea che hanno la tripla A farebbero insieme questo patto, dopodiché estenderebbero l'eventuale collegamento al loro patto, che sarebbe l'area cord, l'euroarea, a paesi con accordi bilaterali, come si è fatto con il trattato di Schengen, quindi per aggirare i tempi lunghi di una modifica collettiva del trattato, perché con patti bilaterali le clausole entrerebbero in vigore immediatamente con la forma di trattati appunto bilaterali votati dai parlamenti. Naturalmente si tratta di verificare se l'accordo tra paesi a tripla A venga considerato dai mercati, ove fosse confermata questa impostazione, come la conferma che davvero c'è uno scudo per l'euroarea, oppure se non si tratti della prima vera manifestazione del fatto che l'euroarea si spacca, perché a quel punto voi capite bene che se viene annunciato tra paesi che hanno la tripla A e gli altri, è come riconoscere che dietro l'angolo, oramai all'angolo, anzi c'è la rottura dell'euroarea. Tra le altre particolarità della stampa internazionale vi segnalo sempre la lezione domenicale, ma questa volta del Frankfurter Allgemeine, una specie di intervista di addio di Jürgen Stark, che ricordate era il membro del board della BCE, il tedesco che si è dimesso in protesta per il fatto che c'era il sostegno ai titoli italiani e spagnoli, e ai lettori della Frankfurter Allgemeine ieri ha spiegato come qualmente oramai la politica che viene dai governi dell'euroarea sulla Banca Centrale Europea è enorme ed è intollerabile. È un giudizio chiaro quello di Jürgen Stark: l'euro così non può reggere perché i politici credono di poter dettare alla BCE che cosa deve fare. E infine Wolfgang Münchau, sulla sua ultima editoriale sul Financial Times, argomentava che sono rimasti 10 giorni, non uno di più, 10 giorni per salvare l'euroarea, perché dopo il flop l'ultima gara di Bund tedeschi e dopo il fatto che oramai l'Italia e la Spagna non scendono giù malgrado le modifiche politiche che sono avvenute, da questo punto di vista la data del 9 dicembre è da considerare, secondo Wolfgang Münchau, una data priva di ulteriori ricadute. Ecco, io mi fermo qua per il momento perché abbiamo deciso di aggiungere nella prima parte di questa trasmissione un punto di vista, il punto di vista di chi da Londra può permettersi di guardare a questa enorme confusione dell'euroarea, con ogni paese che praticamente addita la responsabilità dell'altro, tutti adesso pronti a dire che la colpa è dei tedeschi. Tra l'altro sui giornali italiani è evidente che i nostalgici di Berlusconi non chiedono di meglio che fare questo. Se prendete il giornale, il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, il titolo è: l'asse franco-tedesco vogliono comprare l'Italia, il prestito del Fondo Monetario non sarebbe uno strumento per consentirci di evitare di andare sui mercati per 440 miliardi l'anno prossimo a tassi dell'8%, ma invece del 5%, ma sarebbe una maniera per dire: italiani, vi compriamo. Devo ammettere che non so se sia più l'ignoranza o la malafede, però è un po' questo il tono della politica di centrodestra: nessuna ammissione delle responsabilità per cui l'Italia è in queste condizioni. Ha fatto la furba, ha sprecato i dividendi dell'euro, ha fatto un nuovo debito pubblico, nuova spesa pubblica, la colpa è sempre degli altri, dei tedeschi cattivi e del governo Monti, che è stato messo lì e in una settimana non ha tirato fuori la bacchetta magica. Inciso: o vi svegliate, cari professori, oppure è ovvio che il minimo che si dica è che i professori che prendono l'incarico e dicono dobbiamo adesso studiare sono dei professori un po' sbagliati, perdonate, inciso. Detto questo, noi a tutta questa bel di confusione che trovate sui giornali, e che però non è eccessiva, perché qui davvero ci si gioca tutto in pochissimi giorni, volevamo aggiungere il punto di vista che si può permettere di essere distaccato, perché da Londra, cioè da un paese che non ha mai voluto fare la scelta dell'euro e che si trova oggi nella condizione apparentemente paradossale di avere più deficit, molto più deficit annuo di quanto per esempio non ne abbiamo noi che siamo in avanzo primario, più debito sommato delle famiglie, delle banche e delle imprese rispetto alla media dei paesi dell'euroarea che sono considerati poco virtuosi, eppure a oggi i suoi analoghi tassi che paga sui titoli del debito pubblico rispetto a quelli tedeschi sono più bassi, cioè sono più bassi di quelli del paese più eurovirtuoso di tutti. E quindi apparentemente un paradosso, agli occhi di molti suona come la conferma del fatto che stare lontani dall'euro, quando però si ha un'economia di importanza mondiale, sia pure sui servizi finanziari e sia pure avendo pagato l'amaro prezzo di una crisi cresciuta sugli affari finanziari, ma avendo una banca centrale propria, comunque si sta meglio rispetto all'euro. Questo è ciò che rappresenta questa condizione agli occhi di molti. Noi sentiamo invece come vanno le cose da uno dei più accreditati, e per quello che mi riguarda anche più bravi e simpatici, che conta pure un po' anche quello, osservatori della realtà britannica, che ha scritto per Il Foglio, scrive per Panorama, William Ward, che io ringrazio e saluto, chiedendogli: ma come lo vive allora questo paese questa meravigliosa condizione di assistere al Titanic dell'euro che va giù? Ecco, ciao Oscar, buongiorno a chi ci ascolta e grazie per questa presentazione così affettuosa e generosa. Direi invece che lo sguardo, la prospettiva quasi pressoché unanime da parte della stampa, dei media britannici rispetto alla situazione europea e dell'Italia in genere, sia invece un po' meno generosa e molto più pessimista e allarmata, e da molto tempo. Sembra che in Inghilterra, cioè una delle grosse divergenze fra la nostra prospettiva e quella vostra, cioè da chi sta dentro l'Eurolandia, è come dire, il diritto di dare del pane al pane, insomma, di dire le cose con il loro proprio nome. Sono almeno 6 mesi che si parla in Inghilterra, da 6 mesi che almeno qualche importante osservatore delle cose economiche internazionali parla, prospetti la possibilità del collasso dell'area dell'Eurozona, non con quello che i tedeschi chiamano Schadenfreude, cioè il piacere di constatare i guai altrui, ma semplicemente leggendo le carte dei fatti e cercando di interpretarle, mentre da George costantemente si sente dire dagli altri paesi europei che invece no, l'Eurozona va benissimo, non ci sono problemi, soltanto un mal di testa passeggero, non c'è nulla di organico e solo così fisiologico come dicono i medici. Eppure finalmente siamo arrivati a quanto tu stai raccontando agli ascoltatori adesso. Anche in Italia si è svegliati alla possibilità che siamo a capolinea. Ti ripeto, da molti mesi invece in Inghilterra si dà per molto probabile che questo sia la fine dell'Eurozona. E dal punto di vista delle conseguenze che ciò avrebbe per l'economia britannica, come vengono considerate? Ecco, questo è molto interessante, Oscar, perché da sempre il Partito Conservatore è quello attualmente al governo in coalizione con i più euroentusiasti liberal democratici, partito diciamo centrista. Il Partito Conservatore, dico, è sempre stato molto euroscettico e con componenti, anche una corrente un po' meno euroscettica, una di più, ma grosso modo questa è stata la linea. Invece da 6 mesi almeno David Cameron, che è una delle prime cose che ha fatto diventato primo ministro maggio dell'anno scorso, era di portare i Tories fuori del gruppo al Parlamento europeo del centrodestra, appunto dei popolari, proprio perché non si sentiva in sintonia con loro. In questi ultimi mesi invece ha fatto di tutto per sostenere l'euro, perché per il, come dire, per per il motivo che guida tutte le decisioni della politica britannica in tutti i settori da sempre, cioè il pragmatismo, la semplice necessità che la nostra economia, senza la stabilità necessaria dell'area eurozona, è destinata anche a crollare. Quindi suo malgrado e in un grande spirito di paradosso, il governo euroscettico britannico ha fatto di tutto per sostenere questo malaticcia moneta, appunto l'euro, e continua a farlo, cerca di in ogni modo a trovare appunto maniera per sostenere l'euro e per ridare stabilità insomma alle sue fortune, con come dire, risultati magari scarsi, ma per la Gran Bretagna è fondamentale garantire la sua stabilità, per garantire appunto il successo delle nostre esportazioni. Ora, ciò che naturalmente a molti nell'euroarea sfugge è come la Gran Bretagna, che è stata 4 anni fa, insieme agli Stati Uniti, insieme all'Irlanda, al centro di un'enorme ondata di fallimenti bancari, della necessità, meglio, di approntare enormi salvataggi attraverso garanzie pubbliche nel capitale e anche interventi diretti nel capitale delle banche da parte della Bank of England e da parte quindi dello Stato britannico, sia in migliori condizioni di coloro che invece gli eccessi di quel sistema di intermediazione li hanno condivisi, ma solo in parte, e non si sono trovati nelle condizioni di dover approntare mega salvataggi bancari come in Gran Bretagna. A oggi la fotografia della salute e dei mali invece dell'economia del Regno Unito e della sua occupazione, come stanno le cose? Non bene, Oscar. C'è per la prima volta da almeno 30 anni, dai primissimi anni del governo Thatcher nel 79, c'è la disoccupazione intorno ai 3 milioni, c'è la disoccupazione dei giovani ai livelli quasi spagnoli, cioè c'è non proprio come la Spagna, dove credo che sia per i giovani fino al 46%, in Inghilterra al 15%, una cosa disastrosa per noi, che la Gran Bretagna è un paese dove, a differenza di certi paesi William, paragonano al fatto che tra i giovani in Italia è il 27%, quindi in realtà è nel sud è di 10 punti superiore, quindi insomma è, per quanto è elevata rispetto alla storia britannica, naturalmente. Sì, esatto, cioè è da noi appunto un paese dove non si dice mai politico, non ho mai sentito dire da un politico la frase largo ai giovani, perché non c'è mai stata necessità di dire questa frase nell'occupazione, nel mondo anche della politica, perché si è sempre fatta larga ai giovani, cioè abbiamo l'età media di qualsiasi o dirigente o semplicemente manovale in una qualsiasi azienda in britannica o ente britannico è molto minore a quello italiano. Questo un dato di fatto evidente da molti anni, per cui quello che si sta vedendo adesso è un'intera generazione di giovani che non trovano un ingresso sul mercato del lavoro, quindi una cosa che non è nuova in Italia, ma per noi è molto preoccupante e fa molto molto effetto. In più c'è il problema dei mancati introiti delle tasse, perché con tutti i tagli che sta facendo il governo conservatore e libero democratico, c'è il forte rischio con questo piano A, come viene chiamato, dei forti tagli delle spese governative, c'è anche il problema che dei mancati introiti a livello fiscale. E oggi dovrebbe annunciare il cancelliere dello scacchiere, cioè il ministro dell'economia britannica, il quarantenne adesso, George Osborne, di investire qualche miliardo di sterlina per quello che i laburisti hanno sempre invocato, cioè il piano B, cioè un piano più alla Obama, un po' keynesiano, di investimenti piuttosto che di tagli feroci thatcheriani per, appunto, per ispirare il mercato. Quindi in Gran Bretagna il grande dibattito è fra questi due piani, cioè la visione più keynesiana della sinistra, o è appunto quella adoperata con grandissimo costo dell'amministrazione americana di Barack Obama, oppure la visione proseguita dal governo di centrodestra britannico, appunto, di fare tagli dappertutto, e non si sa ancora se avrà funzione. L'unica cosa è, come tu hai hai descritto o prospettato nella tua introduzione, è che i mercati internazionali ancora continuano a crederci e ci hanno, come dire, continuato a conferire un tasso molto molto basso, quasi uguale a quello della Germania, anche se la nostra situazione economica per certi versi sembra più vicina a quella dell'Albania. Bene, la sincerità di William Ward ci aiuta a capire questo apparente paradosso. È un paradosso perché effettivamente la condizione dell'economia britannica non è come quella tedesca, però quella tedesca è in rapido deterioramento per effetto del minor tiraggio di domanda, delle politiche deflazionistiche che sono state la risposta in quest'ultimo anno miope al problema della convergenza nella virtù dell'euroarea, tanto è vero che le previsioni della crescita dell'economia tedesca sono passate dal 2% poi all'1,8% per il 2012, adesso a un modestissimo 0,7-0,8%, mentre, per essere chiari, la nostra economia è tra quelle con il segno meno. Però capite benissimo che agli occhi della Gran Bretagna, a cui abbiamo chiesto di aderire allo schema di Tobin Tax, che sarebbe la strada franco-tedesca per accrescere le risorse al bilancio europeo, Londra dice marameo, non ci starà mai, l'industria finanziaria sa che la Tobin Tax non ha nessun effetto se non si applica a livello mondiale, significa semplicemente regalare flussi di capitale alle parti del mondo che non la applicano, e del resto i britannici, per quanto messi male dalla crisi dell'euroarea, ne ottengono un miglior credito sul mercato. E quindi non hanno certo buone ragioni per credere che l'euro edificio sia la risposta del futuro, visto che non ha risposto adeguatamente per il passato. Grazie a William Ward, e adesso andiamo prima in pubblicità e poi al ritorno, insieme alle vostre opinioni, ascolteremo le opinioni di chi non è come me nel mainstream, non è nel luogo comune dominante rispetto all'appuntamento del giorno. Oggi è il primo dei due BTP Days di questa bella settimana in cui bisogna piazzare tra titoli italiani, spagnoli, belgi nelle aste pubbliche europee, con questo bel punto interrogativo, oltre 17 miliardi di euro di titoli. Sapete che il sistema bancario italiano, pezzi dell'impresa italiana, tra cui moltissimi presidenti di Unione Industriale di Confindustria, quindi io lo dichiaro per evitare che si pensi che non sia in conflitto di interesse, sono in conflitto di interesse, hanno aderito a questa iniziativa patriottica di chiedere agli italiani, a tutti voi, di sottoscrivere i titoli del debito pubblico con il vostro risparmio, dicendo facciamo come il Giappone, arriviamo al 100% di debito nelle nostre mani, e ce n'è un 42% però nelle mani di non residenti, quindi it's a long way to Tipperary, dice la canzone, perché che adesso gli italiani debbano mettere mano per ulteriori 700 miliardi, 600 miliardi, il 42% del PIL, per arrivare al 100% del debito pubblico, mi sembra difficile. Ricordo che gli italiani sono già molto patriottici perché, per così dire, detengono più di 1.100 miliardi di euro in depositi bancari e nelle poste. Però, visto che questa è l'iniziativa del giorno, noi tenteremo, con rispetto pieno verso l'ABI, le banche che rinunciano alle commissioni, il sistema Confindustria che aderisce, e i grandi giocatori di calcio che ho letto che anch'essi destinano parte del loro patrimonio all'acquisto dei BTP, noi tenteremo, dopo la pubblicità, invece, di farvi ragionare diversamente. Del resto, il dissenso è l'ABC della democrazia, e può essere che chi poi ha responsabilità in questo sfascio forse può essere che non abbia sempre ragione, o no, rispetto a chi dissentiva su tante cose e dissente anche modestamente sul BTP Day. Ed eccoci tornati qua in studio, ci siamo lasciati con l'accenno al BTP Day oggi, prima delle due giornate, oggi riservata all'agevolazione all'acquisto sul mercato secondario, la prossima invece sarà un giorno d'asta in cui il sistema bancario io dico complice, poi dico, bisognerebbe dire correttamente, su consiglio, su richiesta di qualche imprenditore che ha comprato pagine sul Corriere della Sera, ha detto: ma sì, italiani, diamo tutti una risposta con il vostro patrimonio, comprate titoli del debito pubblico, noi patriotticamente rinunciamo alle commissioni. Io richiamo a tutti l'amaro quadro in cui le banche vengono indotte da decisioni prese dall'autorità bancaria europea, l'EBA, esse a dismettere i titoli del debito pubblico, perché sono obbligate a farne una valutazione mark-to-market, cioè a prezzi di mercato nei loro attivi. Quindi, poiché il valore dei titoli del debito pubblico in proporzione a quanto sale l'interesse, significa che sul nominale scende, perché è un titolo a rischio. Quindi le banche sono obbligate dal regolatore bancario europeo a dismettere i titoli del debito pubblico. Paradosso, mentre la BCE poi invece li compra per sostenerli, ma comunque questa è la decisione del regolatore bancario europeo. Può essere mai che i titoli del debito pubblico italiano, che sono troppo rischiosi per gli attivi delle banche, siano invece meno rischiosi se ve li prendete voi in saccoccia, cari Topolino in ascolto? Io credo di no, e l'ho detto fin dall'inizio. Ovviamente l'ABI, presidente dell'ABI, legittimamente mi ha chiesto di essere molto trattenuto su questa mia modalità di esprimere il dissenso, però la cosa positiva è che, dal mio punto di vista, è che io sono l'ultimo scemo a pensare così, ma c'è gente che invece si occupa di mercati tutti i giorni e che ha avuto diciamo il doveroso rispetto dei propri clienti, di come esercita il proprio mestiere, cioè del fatto che non si può dire ai clienti una cosa e poi in pubblico dire l'opposto. E man mano che si avvicinava a questo giorno si è infittita la schiera di coloro che hanno avanzato dei dubbi. Ieri, con mia grande soddisfazione, su Libero, per esempio, sul quotidiano Libero, una mezza pagina è stata comprata da coloro che esercitano tutti i giorni attraverso un blog che è più di un blog, è una specie di piattaforma, progetto di tutela dei risparmi finanziari degli italiani, e fa anche controinformazione finanziaria, dati alla mano. Sono gli amici di Mercato Libero, hanno elencato con una bella lista di motivi perché e per come neanche loro sono convinti di questo BTP Day. E abbiamo qua in studio Paolo Barrai, che è uno degli animatori proprio di Mercato Libero, che ci spiega adesso, io lo ringrazio di essere qua, le ragioni per cui questo appello non lo ha convinto, come non ha convinto me. Intanto grazie e buongiorno a Paolo Barrai. Buongiorno Oscar, buongiorno a tutti. Grazie di questa opportunità che mi hai dato per cercare di spiegare in qualche minuto che cosa un italiano dovrebbe fare oggi. Però per decidere di cosa deve fare oggi, io partirei da qualche anno fa. Qualche anno fa abbiamo permesso in un paese che era uno dei più potenti e più forti paesi del mondo di delocalizzare l'impresa tranquillamente, anzi la stessa Confindustria, lo stesso Stato, tutti, anche le banche, hanno aiutato gli imprenditori a spostare capitali all'estero in maniera del tutto legale per cercare di aprire industrie, e così facendo hanno creato un po' di povertà nel nostro paese. Secondariamente, nell'ultima crisi post Lehman abbiamo visto i consumi degli italiani che, privati dell'industria e quindi privati di posti di lavoro, si sono dovuti ridurre ad abbassare i consumi e il tenore di vita. E quindi in un paese la ricchezza è data da tre cose fondamentali: dall'industria, dai consumi e dal risparmio. Quando i primi due, non per colpa del cittadino che paga le tasse tutti i giorni, vengono a mancare nel corso degli anni, e quando una politica di uno Stato decide di premiare il debito invece che riportare valore in un paese, attenti almeno al risparmio, dici tu. È evidente che rimangono due cose in Italia oggi importanti: il debito e il risparmio. Quando i tassi di interesse salgono, perché c'è poca fiducia da parte di investitori istituzionali nel sistema, è evidente che il rischio grosso è che il debito fagociti il risparmio. E da qui nasce la problematica sul BTP. Io amo l'Italia, io amo questo paese, ho scritto nelle pagine di questo del giornale, che fra l'altro volevo, scusate, ci tengo veramente tanto, non l'ho comprato io con i miei soldi. Questa pagina è stata comprata dai nostri lettori, abbiamo fatto una campagna e in 7 ore abbiamo raccolto i soldi necessari per comprare questa pagina, quindi non sono soldi di tasca mia, come ha messo invece il signor Melani, 20.000 euro che qualcuno non sa che sono saliti a 21,5, perché se quel giorno lui comprava i BTP, quel giorno che lui ha comprato la pagina, per 20.000 euro, a oggi ci perde circa 1.500 euro, quindi la perdita di questa persona, che è un risparmiatore come tanti altri, è molto importante. E invece sono stati i lettori del vostro blog a cofinanziare la pubblicazione della mezza pagina. Arriviamo ai punti allora. Per quale ragione, diciamo, le ragioni del nostro dissenso su chi invita patriotticamente, su cosa si fondano? Prima dei punti, ancora un'altra cosa importante è quella che riguarda il timing. Il timing dell'ABI che ha lanciato questa iniziativa. Ora, può darsi che chi compra oggi speculando, perché i mercati sono ballerini, possa anche guadagnare, ma qui si sta parlando di risparmio di famiglie. E allora dico una cosa, perché con una punta di orgoglio non spostare il BTP Day al giorno in cui Monti e il nostro governo attuano le riforme? Oggi abbiamo, e passiamo ai punti, una BCE che dice che non comprerà all'infinito titoli di Stato italiani. Sugli euro bond non si sa nulla. Sul fondo salva stati solo parole, sul fondo monetario internazionale abbiamo avuto la speranza che... E poi la successiva smentita. Quindi come si fa davanti a questa incertezza dire alle persone di andare in banca a comprare i BTP? Tengo presente un'altra cosa, rinunciare alle commissioni, ma lo sapete che la maggior parte degli italiani compra i BTP tramite banche online? Quindi oggi stanno per comprare 1 milione di BTP, per chi ha la fortuna di averli, come magari qualche calciatore, gli costa 8-9 euro. Questa è la rinuncia che ha fatto il sistema bancario, 8-9 euro di eseguito su un'operazione. Quindi non mi sembra, e poi parliamo dei calciatori. I calciatori, non mi sembra che i calciatori siano i migliori investitori del mondo. Comunque i calciatori lasciamoli da parte, torniamo sul resto, su perché una famiglia italiana è meglio che ci pensi, poi decida come vuole, magari aderisca all'appello patriottico, però altre buone ragioni da prendere in considerazione prima di comprare. Beh, ce n'è una molto importante che è di lungo periodo, l'età media degli italiani. Abbiamo un'età media di 47-48 anni e dietro abbiamo una popolazione giovane che non sta producendo ricchezza. Ora, se il debito pubblico è visto nel medio-lungo termine, non c'è possibilità di ripagare il debito se non si fanno riforme strutturali. Le riforme strutturali sono di tre tipi. Una grande inflazione, il che vorrebbe dire non detenere BTP. Una ristrutturazione del debito, il che vuol dire non detenere BTP. Oppure l'Europa ci prende in braccio e ci dice vi ho salvato. E qui, in questo caso, forse BTP sarebbe una soluzione, ma è una su tre. Troppo rischio per me. Ecco, anche questa è una considerazione da prendere, cioè noi possiamo e dobbiamo tifare per programmi di riforme molto incisive. Naturalmente in queste riforme molto incisive, se tanto più sono incisive, tanto più voi capite che credere di farvi rimanere coi tassi che oggi i rendimenti sono così elevati, perché invece esprimono esattamente la sfiducia che queste riforme ci siano, se ci saranno, che è l'unica delle tre prospettive che vi ha appena ricordato Paolo Barra, è come evidente quei rendimenti sono illusori, che si abbatteranno. Capite che è un ragionamento da fare per forza. Nella migliore delle ipotesi quei rendimenti scendono, nelle altre due quei rendimenti non ci sono perché esplode qualcosa sotto. Esatto. E poi settimana scorsa ci è stato detto che la Germania può fallire perché ha avuto un'asta che è andata un po' deserta per qualche miliardino di Bund tedeschi, però nessuno è andato a far vedere il grafico dell'andamento del Bund tedesco e dei rendimenti del Bund tedesco degli ultimi due anni. Il rendimento medio del Bund tedesco è del oltre il 3%, oggi siamo al 2,20, quindi ai tedeschi pagare il 3% sul loro debito non gli crea nessunissimo problema, ma se lo spread, che qualche politico finalmente dopo le Iene ha imparato a capire che cos'è, se lo spread rimane 500 punti base, per noi vuol dire aumentare il costo del debito al 9%, come hai ricordato tu a inizio trasmissione. Il problema grosso è che fra 3-4 mesi dobbiamo rifinanziare un'enorme quantità di debito pubblico e di debito bancario. Allora, fermiamoci qua perché poi adesso ci abbiamo, facciamo qualche telefonata, poi facciamo le informazioni sulla circolazione stradale e poi riprendiamo, perché così vediamo se arrivano anche telefonate su questo. Cominciamo intanto con Marco che ci chiama da Vicenza. Prego Marco. Buongiorno, mi sentite bene? Sì, prego, vada. Allora, volevo informare tutti gli ascoltatori e tutti quanti quelli che ci ascoltano, insomma, di un amaro paradosso di cui siamo tutti quanti vittime. Quale? Se noi raccogliessimo tutti gli euro che ci sono in circolazione nel mondo, tutti i risparmi di tutti gli italiani, di tutti gli europei che ci sono, e li raccogliessimo per pagare tutti i debiti europei degli stati europei, tutti i debiti pubblici degli stati europei, i soldi che abbiamo raccolto non basterebbero per questo. se mi date 2 minuti vi spiego anche velocemente come succede questo, posso? Aspetti un secondo, cioè è abbastanza evidente che il totale dei debiti pubblici però non vanno estinti con un'operazione one off, ritirando tutto. Quindi io la prendo come un elemento di riflessione, naturalmente nessuno pensa di fare una cosa di questo genere. Il problema, perdoni, la scarsa sostenibilità dei debiti pubblici non dipende tanto dall'argomento che ha citato lei, cioè rispetto alla massa di risparmi e circolante che sono in giro, li equilibra oppure no. Il problema della sostenibilità è dovuto a i tassi di crescita, quando sono molto bassi di un sistema o di un paese, come nel nostro caso la sostenibilità diventa più bassa, il bilancio intergenerazionale, cioè al di là della fotografia della bassa crescita, che cosa c'è in prospettiva nei prossimi anni, nel nostro caso è abbastanza disastroso, per questo occorrono interventi molto profondi di riforma dei meccanismi del welfare, della previdenza, di tutto ciò che dovrebbe concentrare una quota molto più bassa di spesa pubblica su dove, laddove davvero serve, e da altre cose tipo quanto è già alto il sistema di prelievo rispetto a quello di spesa, perché è ovvio che quanto più è alto, nel nostro caso è altissimo da record, tanto più difficile è operare correzioni in un detto temporale stretto ulteriormente alzandolo, ma diventa più difficile perché bisogna invece farlo al ribasso della spesa, della pressione fiscale, che naturalmente comporta difficoltà aggiuntive rispetto al ciclo naturale della spesa elettorale così come la politica lo concepisce. Sono queste alcune delle determinanti di fondo che pesano per determinare agli occhi del mercato la sostenibilità o meno dei debiti pubblici, non tanto la cosa, per quanto paradossalmente fondata, che ha detto lei. Ora abbiamo il minuto sull'informazione stradale e poi torniamo in studio con Oscar Giannino e Paolo Barrai. E ripartono le note ipnotiche di This is the End dei Doors, che teniamo come sempre in chiusura. Il tecnico che invece ha aderito all'acquisto di BTP oggi nella parte finale è obbligato invece a essere un po' più scettico, però giustamente lui ha comprato, non vi dirò il nome perché sennò pensate che sia molto ricco, quindi ne tuteliamo l'anonimato, per così dire. Sentiamo come la pensa Pierluigi, che ci chiama dalla provincia di Ancona. Prego Pierluigi. Oscar, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io propongo un osservatorio differente, in quanto sono sposato con una donna francese e giornalmente mi martella su quella che è la nostra politica comatosa, sul nostro lassismo, sul nostro così mangia quotidiano. Mm. È vero che anche loro hanno le loro ben grosse problematiche, però se noi non ci diamo una smossa, non parte un po' da noi, come lei mi dice tutti i giorni, si ne fa rien a rien, e questo secondo me è molto importante. Certo, lo Stato ha fatto il debito e lo Stato dovrebbe ripianarlo, però se sta anche a noi dare un piccolo segnale, via, se ce la facciamo a dare questo segnale in questo BTP Day per poter un po' risollevare questa nostra situazione. Va bene, Pierluigi, ma infatti come vedi, aperti a tutti i contributi, non dico di no. Io diciamo che di segnali con il mio bel prelievo fiscale e la disponibilità a quello, a ciò che, come si è capito, il governo Monti ci riserva ulteriormente, mi pare che... cioè, per India cadaver e l'effusio sanguinis, come per usare il termine latino con cui i gesuiti giuravano fedeltà, e qui fedeltà al patto con lo Stato, cara ci costa, anche perché io non sono d'accordo, ma insomma la ottempero. Se mi chiedi anche in più, io ho dei motivi di dubbio che qui esprimiamo. Sentiamo ancora Massimo da Milano, come la pensa Massimo? Sì, buongiorno. Dica. Senta, io sono sempre d'accordo con lei. Io non sono d'accordo con lei sul fatto che i cittadini non debbano comprare i bot. Il suo atteggiamento mi sembra quello dei ricchi che durante la guerra erano imboscati e mandavano avanti i poveretti. Ah sì, hai capito, ecco. Sono poi un'altra cosa, se mi permette. Lei ce l'ha su con i professori. Io vorrei sapere, io sono il professor Monti e dico, andiamo in Parlamento e diciamo, mettiamo una patrimoniale. Io la metterei così. Chi dimostra che tutto il patrimonio è stato pagato con dei soldi tassati, una cosa minima. Quelli che non lo possono dimostrare, un'aliquota maggiore, più è il delta fra il patrimonio che ha e i soldi tassati. Massimo, te la fermo. Guardi, io non sono imboscato perché tento di fare il mio mestiere e pago tasse altissime, sicuri, sono un modestissimo lavoratore autonomo, quindi tutto ammesso. Quindi non critico, io ho dato una mano perché il governo precedente che ci ha portato in questo guaio fosse mandato via. Dico ai professori però che si fanno passare le settimane dicendo che devono studiare, mi deludono, capisce? Perché i professori non sono quelli entitled to, chiamati a rispondere e dire adesso dammi tempo perché devo studiare, perché questo me lo aspetto dal politico somaro. Terza cosa, ci mancherebbe che noi chiedessimo ai patrimoni che sono frutto di redditi ipertassati, come nel mio caso, e che sono quindi notissimi allo Stato, perché lo Stato sa tutto quello che ho, di dover ridichiarare allo Stato come se li ho messi insieme questi patrimoni in maniera alternativa rispetto ai redditi che mi ha supertassato, perché c'è un limite anche al Tribunale dell'Inquisizione, per così dire, e questo limite, come abbiamo dimostrato nella trasmissione di venerdì su Equitalia, spesso l'abbiamo già siamo già andati oltre, per così dire. Qualche altra ragione, Paolo Barrai, per ragionare con i nostri ascoltatori che invece sono convinti del BTP Day del fatto che forse è meglio che ci pensino sopra? Io credo di non essere la persona più intelligente al mondo e credo che in Italia, fra i risparmiatori come noi, di persone più intelligenti ce ne sono veramente poche. Perché? Perché quelle intelligenti stanno a capo dei grandi banche d'affari, di grandi fondi pensione, di persone che guardano, studiano tutti i giorni la nostra economia e hanno venduto i BTP. Ora, che mentre il coltello cade, tu lo devi raccogliere, o che tu cerchi, comprando, di pensare, credi di essere il più furbo e poter guadagnare, e mentre altri hanno venduto, altri importanti che studiano tutti i giorni, ripeto, a me sembra veramente un controsenso. Io aspetterei le manovre, aspetterei una riduzione del debito, aspetterei una ristrutturazione del sistema Italia, e quando comincio a vedere le persone importanti, i grandi fondi che rientrano in Italia, allora sì, investo. Ma no, io sono in un mondo globale, mi hanno detto che sono europeo, mi hanno detto che sono globale e poi mi dicono invece che devo comprare il BTP. È un po' un controsenso. A me sembra oggi che i soldati mandati al massacro sono gli investitori, mentre le banche stanno a riparo e mentre altri soggetti che sono molto più preparati di noi non si fanno infinocchiare da una stampa populista. Allora, noi su questo abbiamo l'obbligo e il piacere anche di rilanciare la straordinaria, ottima collega Deborah Rosciani, che come sempre oggi però sul suo Salvadanaio alle 12 vi chiarirà ulteriormente tutti i misteri, i consigli, i vantaggi e gli svantaggi del BTP Day. Intanto appuntamento a domani e linea al giornale radio. 9 in punto.